Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con un totale di circa 2 miliardi di metri quadri da riqualificare, l'Italia ha il patrimonio immobiliare più vecchio d'Europa dopo quello tedesco, che per una volta ci battono anche in senso negativo. E poi però ha un indice di consumo di suolo, l'Italia, doppio rispetto a quello medio europeo. Insomma, è una situazione di fronte alla quale non c'è dubbio che tutti gli sforzi debbano essere orientati a rimodernare quello che c'è, più che costruire nuovi edifici. Ebbene, lo scorso settembre a Rebuild, convention che ogni anno fa incontrare gli esperti del mondo della riqualificazione, in particolare energetica, del settore immobiliare, sono stati presentati alcuni tra i casi di riqualificazione edilizia appunto più innovativi d'Europa. E anche si è parlato di una pratica che si sta pian piano diffondendo, il Green Lease, di cui vogliamo parlare anche noi con Thomas Miorin, direttore di Habitech, che è il distretto tecnologico trentino e che è anche uno degli ideatori di Rebuild. Buonasera Miorin. Buonasera a voi. Senta, allora, partiamo dalla Svezia. Da dove arriva un esempio interessante, soprattutto per l'approccio? Assolutamente. Noi oggi qui in Italia abbiamo obiettivi ambiziosi, penso al 3% di riqualificazione dell'edilizia pubblica. Un obiettivo che non possiamo approcciare, come dire, edificio per edificio. Ci serve una soluzione di sistema. È per questo che abbiamo chiamato alcuni svedesi a raccontarci come hanno fatto. In particolar modo abbiamo invitato Vasakronan, che è una società che gestisce circa 10 miliardi di euro di patrimonio immobiliare, circa 200 edifici, 2 milioni e mezzo di metri quadri. Allora hanno fatto un progetto interessante e in 6 anni hanno riqualificato il loro patrimonio con dei risultati strabilianti. Stiamo parlando del 97% di riduzione delle emissioni o del 30% di riduzione dell'energia, dei consumi di energia. Risultati molto importanti, in quanto, come dire, hanno portato la media dei consumi del loro patrimonio immobiliare a circa la metà della media dei consumi della Svezia, che è già una Nazione leader da questo punto di vista. E se ho capito bene, anche con un esborso incredibilmente basso. Quanto è costato questa operazione di riqualificazione? Sì, poco, perché hanno portato a casa una serie di risultati con un'azione di ottimizzazione a costo zero, ovvero lavorando con le persone interne e con i tenant, poi magari vediamo con i locatari, vediamo come, e hanno investito su una serie di miglioramenti dell'efficienza solo 17 milioni di euro, con dei risultati d'altra parte anche qui... 17 milioni di euro e basta? Solo 17 milioni di euro. Veramente impressionante. Ecco, molto si è giocato sul coinvolgimento delle persone che ci stavano dentro, con premialità di vario tipo, quindi buttandola più che sul ti punisco se non sei bravo, sul ti premio se sei bravo, e questo è già un'indicazione. E poi diceva, c'era quella cosa che stava accennando relativamente a un nuovo tipo di rapporto con i locatari, cioè coloro che affittano i loro edifici. Loro hanno adottato questa pratica che si sta diffondendo a livello internazionale, meno in Italia, a dire il vero, che è quella del Green Lease, che è una semplice soluzione a un dilemma, che è la distribuzione dei costi e dei benefici tra proprietario e locatario, ovvero tipicamente è il proprietario che interviene per fare un'operazione straordinaria di riqualificazione sull'edificio, ma il beneficiario non è, lei dice, il proprietario. Esatto, nel senso che è il locatario che si porta a casa con una miglior qualità dello spazio, una miglior performance e quindi riduzione dei costi di bolletta. E quindi loro, il Green Lease cosa propone? Il Green Lease è un accordo tipicamente abbastanza semplice che vuole offrire benefici sostanziali sia qualitativi che quantitativi sia al proprietario che al locatario. E come lo vuole fare? Il Green Lease si struttura, diciamo, su 3 punti principali, cioè il primo è una serie di azioni comuni sia del locatario che del proprietario, volte a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali dell'immobile. Il secondo punto è un allineamento degli investimenti e dei benefici, in modo tale che entrambe le parti possano sì investire, ma portare a casa una serie di benefici. Concorrere avendo chiaro che hanno anche loro comunque un ritorno e che questo ritorno in qualche modo è proporzionato allo sforzo che viene fatto. Assolutamente. Il terzo punto è quello della trasparenza, ovvero non si possono intraprendere queste iniziative senza una trasparenza, una visibilità su quelli che sono i dati e le performance tipicamente energetiche. Ecco, senta, a proposito di trasparenza, sarebbe utile un po' di trasparenza negli obiettivi anche a livello nazionale. Ci dice una cosa molto chiara che ha fatto l'Inghilterra, che pure è assolutamente indietro per quanto riguarda l'efficienza energetica. Assolutamente. Loro dal 2017 in Inghilterra non saranno più affittabili le classi F e le classi G. Che in Italia manderebbe fuori mercato, credo, quasi tutto il mercato degli affitti. Assolutamente, questo è interessante come all'estero si stiano veramente ponendo, oltre i parametri europei, una serie di obiettivi volontari che stanno riorientando le filiere e le imprese, e qui sta nascendo una competizione assolutamente interessante. Grazie, grazie Thomas Miorin. Grazie a voi, buonasera.